Parigi, 1 gennaio 1812. Nel momento in cui tutte le campane di Parigi suonavano a distesa per l'anno nuovo, noi eravamo soli di fronte, Napoleone ed io. Giulia mi consegnò, sorprendendomi, l'invito. Dopo la mezzanotte l'imperatore e l'imperatrice terranno circolo, ma la famiglia è invitata per le 10 e tu assolutamente devi venire con noi, ha detto l'imperatrice. Sedevamo come ogni giorno nel salottino della Rue d'Anjou. Giulia mi parlava delle sue figlie, delle sue preoccupazioni domestiche e di Giuseppe, il quale non fa che lagnarsi dei generali francesi che si battono in Spagna e non sanno mantenerlo su di un trono sul quale non si è mai veramente seduto. Lei porta dei modelli color porpora della casa Leroy, cuce delle vestine da bambola per le sue bambine. Bazzica la corte e trova che l'imperatrice è veramente maestosa e che il piccolo re di Roma è un amore. Dicono che abbia i capelli biondi e gli occhi azzurri e due denti nella gengiva inferiore. Napoleone fa il verso del gallo per far ridere il figlio o miagola come un gatto. Io cerco di figurarmi Napoleone che fa chicchiricchio o che miagola. Da prima Giulia non riusciva a capire perché dopo il mio ritorno non mi ero annunciata alle Tuilerie. Ma io vivo molto ritirata e vedo soltanto mia sorella e le mie amiche più intime. Perciò questo invito mi ha colto assolutamente di sorpresa e non potevo liberarmi dall'impressione che con questa chiamata si avesse di mira uno scopo, ma quale? Così fu che per la terza volta mi feci condurre alle Tuilerie con l'angoscia nel cuore. La prima volta era stata la notte che avevo supplicato Napoleone per la vita del duca d'Enghien. Avevo messo il mio cappello nuovo e avevo supplicato inutilmente. La seconda volta avevo accompagnato Giambattista quando egli chiedeva di rinunciare alla cittadinanza francese e di essere congedato dall'esercito. Ieri sera portavo il mio abito bianco e oro e gli orecchini di brillanti della regina vedova Sofia Maddalena. Mi ero appena buttata sulle spalle la pelliccia di Zibellino. Non avevo freddo. Adesso a Stoccolma ci sono dai 20 ai 25 gradi sotto zero. Nella Senna danzavano tante luci come non mai. Quando entrai alle Tuilerie, trassi un profondo respiro. Mi sentivo a casa mia. Le livree verde cupo dei lacchè dell'imperatore, gli arazzi e i tappeti con le api, api dappertutto, come lui mi aveva preannunciato quella notte, e dappertutto luminosità raggiante, niente ombre, niente spettri. Nel salotto dell'imperatrice era già radunata tutta la famiglia. Quando entrai, vollero salutarmi tutti in una volta. Sono o non sono diventata di colpo un'autentica principessa ereditaria? Perfino Maria Luisa si alzò e mi venne incontro. E gli occhi di porcellana erano senza espressione, ma lei sorrideva senza economia e la sua prima domanda fu per la sua cara cugina, la regina di Svezia. Una vasa, naturalmente, è più vicina al cuore di un Asburgo che non tutto quanto il Bonapartume rifatto. Poi dovetti sedermi accanto a lei su di un fragile divano. Madame Letizia ammirò i miei orecchini e mi domandò quanto costavano. Mi rallegrai di vedere la vecchia signora, Madame Mère con i riccioli alla parigina e le unghie curate alla perfezione. Non riesco a capire perché Napoleone ce l'abbia con i miei confessionali. Si lagnava con l'imperatrice. Ad un'asta dove si vendeva del materiale militare fuori uso, ho comperato 3 garitte da sentinella e le ho messe come confessionali nella mia cappella privata di Versailles. Vanno benissimo e le ho comperate proprio per poco. Napoleone trova che è una piccineria, ma già in questa casa non si risparmia. Con cipiglio accusatore si guardava intorno nel salotto dell'imperatrice. No, alle Tuilerie non si risparmia. Oh mamma, mamma mia! Rideva Paulette. La principessa borghese è diventata, se possibile, ancora più bella. Ora ha l'aspetto delicato e fragile e ombre azzurre circondano i suoi grandi occhi grigi. Si faceva riempire continuamente il bicchiere di champagne. Giulia mi ha detto che Paulette è malata. Una malattia di cui non si parla e che non viene mai alle donne, accennò Giulia e divenne dicendo questo rossa come la brace. Io guardai Paulette e mi lambicavo il cervello su codesto suo male misterioso. Vi ricordate ancora di quella sera di Capodanno quando vi sentiste male? Mi disse Giuseppe. Allora aspettavate Oscar. Feci cenno di sì. Allora abbiamo bevuto alla dinastia dei Bernadotte, aggiunse sorridendo. Per bocca di Re Giuseppe di Spagna parla la livida invidia, osservò Paulette e vuotò il suo bicchiere. Erano le 11 passate, l'imperatore non era ancora comparso. Vennero riempiti i bicchieri di champagne della famiglia. Sua maestà lavora ancora, ci disse Maria Luisa. Quando potremo vedere il piccolo? Si informò Giulia. Quando incomincerà l'anno nuovo, l'imperatore vuole salutarlo col bimbo in braccio, disse Maria Luisa. Ma non fa bene alla salute del piccolo svegliarlo bruscamente e portarlo in mezzo a tanta gente, dichiarò Madame Letizia. Entrò Meneval, il segretario dell'imperatore. Sua maestà deve parlare a sua altezza reale, disse sottovoce. Volete dire a me? Domandai involontariamente. La faccia di Meneval si mantenne seria. A sua altezza la principessa ereditaria di Svezia. Maria Luisa chiacchierava con Giulia e non fu sorpresa. Allora compresi che ella mi aveva invitata per ordine espresso dell'imperatore. Le conversazioni dei Bonaparte cessarono. Sua maestà aspetta sua altezza nello studio piccolo, mi spiegò Meneval, mentre stavamo attraversando un'infinità di stanze. I due miei primi colloqui con Napoleone erano avvenuti nello studio grande. Quando entrammo, l'imperatore alzò appena gli occhi dalle sue carte. Prego, accomodatevi, madame. Nient'altro. Molto cortese. Meneval scomparve. Io sedetti e aspettai. Teneva davanti a sé una cartella con molti fogli scritti con caratteri molto fitti. Mi parve di riconoscere quella scrittura minuta e intensa. Probabilmente sono le relazioni di Alquier da Stoccolma, mi passò per la mente. L'ambasciatore francese a Stoccolma è un uomo diligente. L'orologio sul camino ticchettava, avanzando verso il nuovo anno. Un'aquila di bronzo dorato, con le ali aperte, reggeva il quadrante. Perché mi ha fatto chiamare? Mi domandavo. L'imperatore mi ha fatto chiamare per dirmi qualche cosa di preciso. Non occorre che mi intimidiate con l'attesa, sire. Mi sfuggì improvvisamente di bocca. Sono già di natura piuttosto timida e davanti a voi ho persino paura. Eugenia, Eugenia. E intanto ancora non alzava la testa. Si aspetta che l'imperatore apra la conversazione. Monsieur Montel non ti ha insegnato neppure questa poca etichetta? Poi continuò a leggere, ed io ebbi tempo di osservarlo. La maschera di Cesare si è fatta più carnosa, i capelli sono diventati molto sottili e questo viso io l'ho amato tanto una volta. Stupivo. È passato molto tempo, ma del mio amore mi ricordo ancora molto bene. Solo in questo tempo ho completamente dimenticato il suo volto. Perdetti la pazienza. Sire, mi avete fatta chiamare per esaminarmi su questioni di etichetta? Anche per questo. Ma volevo sapere, madame, quale motivo vi ha ricondotto in Francia. Il freddo, sire. Si appoggiò alla spalliera, incrociò le braccia sul petto e contrasse ironicamente la bocca. Bene, bene. Il freddo, dunque. Avete avuto freddo nonostante la pelliccia di zibellino che vi ho mandata, madame? Nonostante la pelliccia, sire. E perché finora non vi siete annunciata a corte? Le mogli dei miei marescialli sogliono rendere regolarmente omaggio a Sua Maestà l'Imperatrice. Non sono più la moglie di uno dei vostri marescialli, sire. Ah, giusto. Quasi l'avevo dimenticato. Adesso abbiamo a che fare con Sua Altezza Reale, la principessa ereditaria di Svezia. Ma dovreste sapere, madame, che i membri delle famiglie reali straniere, quando visitano la mia capitale, sogliono chiedere udienza. Per cortesia, madame. Qui non sono in visita, sono a casa mia. Ah, qui siete a casa vostra? Si alzò lentamente, uscì da dietro lo scrittoio. Si fermò davanti a me e improvvisamente mi urlò. Che cosa pensate veramente? Qui siete a casa vostra e tutti i giorni vi fate raccontare da vostra sorella e dalle altre signore quello che qui si dice. Poi vi sedete e scrivete al vostro signor marito. Vi si crede proprio così sagace in Svezia da mandarvi qui come spia? No. Al contrario, sono tanto stupida che ho dovuto tornarmene qui. Non si aspettava questa risposta. Aveva già preso molto fiato per urlare di nuovo e domandò invece con la sua voce naturale: che cosa vuol dire questo? Sono stupida, sire. Ricordatevi dell'Eugenia di una volta. Stupida, impolitica, incolta. Purtroppo non ho fatto buona impressione alla corte di Svezia e poiché è molto importante che noi... Giambattista, Oscar ed io siamo ben voluti in Svezia, così appunto sono ritornata. È molto semplice. Oh, tanto semplice che non vi credo, madame. Parve una staffilata. Incominciò a camminare su e giù. Forse sbaglio, forse davvero non siete qui per desiderio di Bernadotte. Comunque, madame, la situazione politica si è inasprita al punto che io vi debbo pregare di uscire di nuovo dalla Francia. Lo guardai, smarrita. Mi vuole scacciare. Mi vuole mandar via, via dalla Francia. Avrei piacere di restare qui, dissi sottovoce. Se non posso restare qui, andrò a Marsiglia. Ho pensato spesso di riscattare la nostra casa, la casa di papà, ma gli attuali proprietari non vogliono vendere, così non sono più a casa mia che nella Rue d'Anjou. Sentite, madame, Bernadotte è impazzito? Disse di punto in bianco. Rovistò fra le carte del suo scrittoio e finalmente trasse fuori una lettera. Riconobbi la scrittura di Giambattista. Io offro a Bernadotte un'alleanza e lui mi risponde che non è un mio principe vassallo. Non mi occupo di politica, sire, dissi soltanto, e neppure vedo che cosa c'entri questo col mio soggiorno. Questo vi voglio dire, madame, batté il pugno sul tavolo e un pezzo di stucco si staccò dal soffitto. Si infuriò, purtroppo, si infuriò davvero. Il vostro Bernadotte osa respingere un'alleanza con la Francia. A qual fine credete che gli abbia offerto questa alleanza? Su, ditemelo. Non risposi. Così stupida non potete esserlo, madame. Dovete sapere quel che si sa in tutti i salotti. Lo zar ha revocato il blocco continentale e il suo impero tra poco non esisterà più. Il più grande esercito di tutti i tempi occuperà la Russia. Il più grande esercito di tutti i tempi. La frase lo inebriava. La Svezia potrebbe conquistarsi al nostro fianco una gloria immortale. Potrebbe tornare ad essere una grande potenza. Ho offerto a Bernadotte la Finlandia se marcerà con noi. Gli ho offerto la Finlandia e le città anseatiche. Avete un'idea di tutto questo, madame? La Finlandia! Cercai, come tante altre volte, di immaginarmi la Finlandia. L'ho vista sulla carta, tante macchioline azzurre che rappresentano dei laghi, dissi. E Bernadotte non afferra l'occasione. Bernadotte non marcia al nostro fianco, un maresciallo di Francia che non prende parte con noi a questa campagna. Guardai l'orologio. Tra un quarto d'ora incomincia il nuovo anno. Sire, è quasi mezzanotte. Non mi ascoltò. Era ritto davanti allo specchio del camino. Fissava il proprio volto. 200.000 francesi, 150.000 tedeschi, 80.000 italiani, 60.000 polacchi, oltre 110.000 volontari di altre nazioni. Gridava. La grande armata di Napoleone I, il più grande esercito di tutti i tempi. Io marcio di nuovo. «Mancano 10 minuti a mezzanotte. Sire», ripetei. Si voltò di colpo. La sua faccia era stravolta dall'ira. «E Bernadotte disprezza quest'esercito!» Scossi il capo. «Sire, Giambattista è responsabile del destino della Svezia. Ciò che gli fa serve unicamente gli interessi di questo paese. Chi non è con me è contro di me. Madame, se voi non lascerete volontariamente la Francia, potrebbe avvenire che io vi facessi arrestare come ostaggio. Non mi mossi. Si è fatto tardi, disse d'improvviso. Si avvicinò in fretta allo scrittoio, suonò. Meneval, che doveva stare in agguato dietro l'uscio, piombò nella stanza. Ecco, spedire subito per corriere celere. E a me. Un ordine, signora, un ordine al maresciallo Davout. Davout e le sue truppe passeranno il confine e occuperanno la Pomerania svedese. Che cosa dite adesso, madame? Che cercate di coprire il fianco sinistro della vostra grande armata, sire. Chi vi ha insegnato questa frase? Avete chiacchierato con qualcuno dei miei ufficiali in questi ultimi giorni? Me l'ha detto Giambattista già parecchio tempo fa. I suoi occhi si fecero piccoli. Pensa forse di difendere la Pomerania svedese? Mi divertirebbe vederlo battersi contro Davout. Vi divertirebbe? Pensai ai campi di battaglia, ai poveri monticelli di terra con le croci piegate dal vento, monticelli allineati a perdita d'occhio. E questo lo divertirebbe? Comprendete, madame, che posso farvi arrestare come ostaggio per costringere il governo svedese all'alleanza? Sorrisi. La mia morte non muterebbe le decisioni del governo svedese, ma la mia prigionia dimostrerebbe agli svedesi che io sono pronta a soffrire per la mia nuova patria. Volete proprio fare di me una martire, sire? L'imperatore si morse le labbra. Talvolta anche una gallina cieca sa trovare un granello. Napoleone non vorrà certamente convertire Madame Bernadotte in un'eroina nazionale svedese. Alzò le spalle. Non imponiamo la nostra amicizia a nessuno. La nostra amicizia di solito è ambita. Mancavano 3 minuti a mezzanotte. Io mi aspetto che voi convinciate vostro marito a sollecitare la nostra amicizia. Posò la mano sulla maniglia dell'uscio. Anche soltanto nel vostro interesse, madame. I suoi occhi brillavano, foschi. Io gli rivolsi uno sguardo indagatore e in quel momento squillarono le campane. Nel loro scampanio andarono sommerse la mia domanda e la sua risposta. Napoleone abbandonò involontariamente la maniglia. Come ammaliato, guardava fisso davanti a sé. Le campane di Parigi annunciavano il nuovo anno. Queste campane, pensavo, come le amo, queste cupe campane. «È incominciato un grande anno della storia di Francia», mormorò Napoleone quando tacquero. Io abbassai il saliscendi. Nello studio grande aspettavano aiutanti e ciambellani. «Sbrighiamoci! L'imperatrice ci aspetta!» disse Napoleone affrettatamente e si diede a correre. Tra il sonar degli speroni, aiutanti e ciambellani lo inseguirono. Lentamente, al fianco di Meneval, attraversai le sale deserte. «Avete spedito l'ordine?» domandai. Egli annuì. «L'imperatore viola la neutralità di uno Stato. È il primo atto dell'anno nuovo», affermai. «No, è l'ultimo dell'anno vecchio, Altezza», rettificò Meneval. Quando rientrai nel salotto dell'imperatrice, vidi per la prima volta il re di Roma. L'imperatore lo teneva sulle braccia e il piccolo urlava come un ossesso. Il lattante aveva una camicia di pizzo e una lunga sciarpa in segno di un ordine. «Sciarpe di gala, invece di fasce, dico io», brontolava Madame Letizia. Napoleone voleva rallegrare il suo strillante rampollo e lo solleticava delicatamente, ma i diplomatici stranieri nelle loro uniformi di gala, le dame che ridacchiavano tutte insieme e i membri della famiglia Bonaparte che volevano tutti in una volta accarezzare il bambino, lo spaventavano sempre più. Maria Luisa stava accanto all'imperatore e osservava il piccino impassibile. Gli occhi di lei non erano inespressivi, erano semplicemente stupiti. Sembrava che non riuscisse a persuadersi di essere stata lei a partorire un figlio a Napoleone. Quando Napoleone mi scorse, si accostò a me con il suo urlante bambino. Il suo volto carnoso era raggiante. «Dovete smetterla di piangere, sire, un re non piange!» esortava così il piccolo. Senza volerlo tesi le braccia e gli tolsi il bambino. Madame de Montesquieu, l'aristocratica bambinaia, fu subito al mio fianco, ma io tenevo ben saldo il piccolo. Sotto il camicino di pizzo era molto bagnato. Titillai i tenui capelli sulla nuca, il piccino cessò di piangere. Lo strinsi a me. «Oscar», pensavo, «Oscar adesso beve champagne nelle sale della regina». «Scal!» Con stile gli tocca il bicchiere delle loro maestà, poi della capra, la principessa Sofia Albertina. Poi, da ultimo, della regina vedova. La Koskul gorgheggia un'aria. Giambattista tra un paio di giorni saprà che Davout ha invaso la Pomerania svedese. La Koskul gorgheggia. Baciai i serici capelli biondi. «Alla salute di Sua Maestà il re di Roma!» gridò qualcuno. Si vuotarono i bicchieri. Porsi il piccolo alla sua governante. «Molto bagnato!» le bisbigliai e il bambino fu portato via. L'imperatore e l'imperatrice erano di ottimo umore e discorrevano, come diceva la regina di Svezia, ecco, benignamente. Discorrevano proprio benignamente. Il mio sguardo cadde su Ortensia. 2 mesi fa ha dato alla luce un bambino, sebbene viva da più anni separata da Luigi Napoleone. Sulle sue guance ardevano delle macchie rosse, i suoi occhi rilucevano, si appoggiava stretta al suo scudiero, il conte Flahaut. Per lei la vita ha perduto ogni senso. I suoi figli non saranno gli eredi di Napoleone. L'imperatore, come sempre, fingeva di non vedere la figliastra. Un conte Flahaut, perché no? Vostra Altezza vedrà, il principe ereditario si unirà alla Russia e il principe ereditario ha ragione, udii dire. Qualcuno mi ha sussurrato queste parole o sono io che le ho sognate? Talleyrand era passato zoppicando. Vorrei andarmene a casa. Sono stanca. Ecco che l'imperatore viene verso di me al braccio dell'imperatrice. Non ci si deve vestire di rosa quando si hanno delle guance così rosate. Ecco qui il mio ostaggio, il mio piccolo grazioso ostaggio, disse l'imperatore cortese. Gli astanti educatamente scoppiarono a ridere. Ma non sapete ancora, signore e signori, di che si tratta? Talvolta l'imperatore si irrita quando si ride prima che gli dica una facezia. Temo che Sua Altezza non abbia affatto voglia di ridere. Il maresciallo Davout è purtroppo costretto a occupare una parte della patria nordica di Sua Altezza. Si era fatto un profondo silenzio. Penso che lo zar possa offrire più di quanto io non possa, madame. Ho saputo che offre addirittura la mano di una granduchessa. Credete che ciò possa essere allettante per il nostro ex maresciallo? Il matrimonio con la discendente di un'antica casa sovrana è sempre allettante per un uomo di origine borghese, dissi lentamente. Gli astanti sobbalzarono. Senza dubbio, rise l'imperatore, ma questo allettamento potrebbe pregiudicare la vostra condizione personale in Svezia, madame. Vi consiglio perciò, da vecchio amico, di scrivere a Bernadotte e di indurlo ad allearsi con la Francia, nell'interesse del vostro avvenire, madame. Il mio avvenire è assicurato, sire, mi inchinai, almeno come regina madre. Mi guardò sorpreso, poi tuonò: Madame, prima che sia conclusa l'alleanza franco-svedese, vorrei non vedervi più a corte. E passò oltre con Maria Luisa. A casa mi aspettava Maria. A Ivete e alle altre cameriere avevo dato libera uscita perché festeggiassero la notte di Capodanno. Maria mi tolse i brillanti dalle orecchie e sciolse le fibbie d'oro sulle mie spalle. E Eugenia, disse cauta Maria, quando ripartirai per Stoccolma? Se mi affretto arrivo giusto in tempo per festeggiare il fidanzamento di mio marito con una granduchessa russa, pensai disperata, e non mi mossi. Buon anno, mormorò alfine Maria. L'anno 1812 è appena incominciato, ma già sento che sarà spaventoso. Parigi, aprile 1812. È arrivato Pierre, il figlio della mia Maria. È arrivato assolutamente inatteso. Si era arruolato volontario nel più grande esercito di tutti i tempi ed era stato assegnato ad un reggimento che stava per entrare in campagna muovendo da Parigi. Finora avevo pagato regolarmente 8.000 franchi l'anno per liberare Pierre dal servizio militare. Ho sempre fatto questo volentieri nei riguardi di Pierre. Non c'è scampo, non mi sento la coscienza tranquilla. Maria lo aveva messo appena nato in un ospizio per venire a fare la balia a me e guadagnarsi da vivere. Ho bevuto io il latte materno destinato a Pierre e Maria ha dato a me i suoi baci mentre si struggeva per lui. A buon conto, con o senza latte materno, Pierre è un pezzo di ragazzo, robusto, abbronzato dal sole del sud. Ha gli occhi castani di Maria, ma il suo sguardo è ridente. Deve averlo ereditato dal padre. Portava un'uniforme nuova, fiammante, un berretto di pelo d'orso altrettanto nuovo. Perfino la coccarda bianco-rossa-azzurra sfavillava, tanto era nuova. Maria era come stordita. Timidamente, con le sue mani ossute, gli accarezzava le braccia. Perché? Non faceva che ripetere: eri così contento del posto di fattore che ti ha procurato la principessa. Pierre mostrò il lampo dei suoi denti. Mamma, bisogna andarci, marciare con la grande armata, conquistare la Russia, prendere Mosca. L'imperatore ci chiama alle armi per compiere finalmente l'unità d'Europa. Pensa a tutte le possibilità che ci sono, mamma, si può. Che cosa si può? Domandò Maria. Diventare generale, maresciallo, principe ereditario, re, che so io? Parlava con foga. Non si può marcire in un podere presso Marsiglia quando l'imperatore chiama alle armi il più grande esercito di tutti i tempi. Giorno e notte passano sotto la mia finestra reggimenti che partono per la Russia a suon di musica. Il loro passo di marcia fa tremare le case, i tamburi rullano. La gente si sporge dalle finestre e acclama. Mamma, devi infiorarmi di rosa e la canna del fucile. I soldati del più grande esercito di tutti i tempi partono inalberando dei fiori. Nel giardino fiorivano le prime rose. Maria mi interrogò con lo sguardo. Prendile, Maria. Mettigliele. Ecco, quel bocciolo laggiù, rosso vivo. Mettilo sopra nella canna del suo fucile. Maria scese in giardino e colse le prime rose. Non dimenticherò mai che ho portato sul fucile le rose di un maresciallo di Francia, dichiarò Pierre, al quale io ho tolto il latte materno. Di un ex maresciallo di Francia, dissi io. Avrei preferito servire agli ordini del vostro signor marito, incominciò lui. Vi troverete bene anche in uno dei corpi d'armata del maresciallo Ney, lo consolai. Maria tornò dal giardino. Ficcammo le rose in tutti gli occhiali di Pierre, gli legammo due fiori gialli all'impugnatura della sciabola e infilammo il bocciuolo rosso in cima alla canna del fucile. Pierre si mise sull'attenti e salutò. «Tornate sano e salvo, Pierre!» Maria lo accompagnò fino alla porta di casa. Quando tornò indietro, le rughe del suo volto si erano fatte più profonde. Aveva in mano uno strofinaccio e si diede a lustrare con impeto i candelabri d'argento. Per la strada passava proprio allora un altro reggimento a suon di musica. Era entrato da noi Villat. Da quando la grande armata ha incominciato a marciare non riesce a stare tranquillo. Perché poi i soldati quando vanno alla guerra marciano sempre con una banda? Domandai. Perché la musica delle marce infiamma? Perché quando suona non si pensa ad altro e si tiene più facilmente il passo? Perché i soldati devono marciare sempre con passo ritmico? Altezza, cercate di figurarvi una battaglia, ordine d'attaccare, che figura farebbe un esercito se uno andasse all'assalto a passi lunghi e un altro a passettini? Riflettei. Non capisco ancora. Non significa proprio nulla che uno attacchi il nemico a passi lunghi e un altro a passi corti. Ma non fa bella figura. E poi potrebbe succedere che uno all'ultimo momento fosse preso dalla paura e non attaccasse affatto. Mi capite, altezza? Eh sì, questo lo capivo. Perciò non si può fare a meno della musica reggimentale, concluse la sua spiegazione Villat. La musica militare mi parve d'improvviso senz'anima. Trombe metalliche, pensai, trombe di metallo e tamburi. È passato molto tempo da quando ho udito la Marsigliese senza accompagnamento di musica, cantata soltanto dai lavoratori del porto, dagli impiegati di banca e dagli artigiani. Adesso mille squillanti trombe intonano quella melodia quando compare l'imperatore. Mi si avvicinò il conte Rosen. Teneva in mano un dispaccio e mi diceva non so che cosa. Non riuscivo a capirlo. Tanto alto era il clamore delle trombe giù nella strada. Ci scostammo dalla finestra. Devo fare un'importante comunicazione a vostra altezza. La Svezia ha concluso il 5 aprile un'alleanza con la Russia. Colonnello Villat? La mia voce era atona. Il compagno di Giambattista nelle battaglie del 1794, quando era in gioco l'esistenza della Repubblica, il suo collaboratore al Ministero della Guerra, il suo aiutante di tutte le campagne, l'amico fedele che ci aveva seguiti in Svezia ed era tornato con me perché a Stoccolma si brontolava intorno ai nostri amici francesi, il nostro Villat. Vostra Altezza comanda? Avete udito che è stata conchiusa un'alleanza tra la Svezia e la Russia? La musica militare era cessata. Non si udivano più che passi cadenzati. Non potevo guardare in faccia Villat, ma dovevo continuare. Voi siete cittadino francese e ufficiale francese, colonnello Villat. Penso che questa alleanza con i nemici della Francia sarà incompatibile con la vostra permanenza in casa mia. A suo tempo avete chiesto un congedo dal vostro reggimento per accompagnarci ed essere al mio fianco. Ora vi prego di considerarvi sciolto da qualsiasi impegno verso di me. Mio Dio, com'era doloroso questo! Altezza, io non vi posso in questo momento lasciar sola, disse Villat. Mi morsi le labbra e guardai il biondo conte Rosen. Non sono sola. Il conte guardava da un'altra parte, verso un angolo della stanza. Capiva veramente che io dovevo separarmi dal nostro miglior amico? Il conte Rosen è stato nominato mio aiutante personale. Il conte Rosen, se sarà necessario, saprà difendere la principessa ereditaria di Svezia, soggiunsi. Non mi importava che Villat vedesse le lacrime che mi rigavano il viso. Gli porsi tutte e due le mani. Addio, colonnello Villat. Il maresciallo... Voglio dire, Sua Altezza non ha mandato una lettera per me. Non ne è giunta nessuna. Ho avuto la notizia dall'ambasciata di Svezia. Villat mi guardava smarrito. Non so, davvero, ma io so quel che sentite. Voi dovete chiedere di essere esonerato dal servizio militare francese, come Giambattista Oppure, feci un cenno verso la finestra. I passi, quella cadenza di passi eternamente, in marcia, eternamente. Ah. Oppure dovete marciare, colonnello Villat. Non marciare. Cavalcare, rispose Villat indignato. Sorrisi tra le lacrime. Cavalcate, Villat. Cavalcate con Dio. E tornate sano e salvo.